L'insegnamento del regno dei cieli. Parte 1. File audio 8. Capitolo Le cinque fasi del liberatore. Il paragrafo 9. L'insegnamento di Yeshua. Come possiamo vederlo in altre parti dell'insegnamento della redenzione. L'intenzione delle leggi dell'universo è solo di venire a Yesod, di correggere se stessi fino al punto di Ateret Yesod. L'unico modo di ottenere questo è lavorare duramente su se stessi e non vivere secondo riti e tradizioni che ci sono dati. Ai giorni nostri non si trova un rabbino, prete, ministro o guru che sia corretto. Il massimo che riescono a fare è opprimere il loro desiderio di ricevere per se stessi. E ognuno di loro lo fa seguendo le proprie tradizioni. Il loro male non è né il soggetto né l'oggetto del loro lavoro. Che cosa fanno? Lo appiattiscono, lo rendono senza macchia, ma pur sempre esiste. Ogni persona ha il proprio desiderio di ricevere per se stesso, ed esso resterà in vita per sempre. Perciò ridurlo o ucciderlo non è la soluzione. Non puoi trasformare il tuo male in questo modo. Nelle leggi interne dell'universo è scritto che un ebreo non possa prestare denaro a interesse. Ma ci fu un grande rabbino chiamato Hillel, il quale vide il desiderio per il denaro nei suoi fratelli e sorelle, nella massa. Così inventò un modo per ricevere interesse. Che cosa fece? Un patto tra chi presta e chi riceve il denaro, chiamato prosbor. Per il popolo santo è un obbligo seguire la Torah. E ora a loro è permesso, tra virgolette, prestare denaro ufficialmente senza interesse, ma in realtà con interesse. Ti porto questo esempio così che tu possa capire cosa intendo. Il popolo ebreo ha corrotto le leggi del Creatore. Leggi che erano intese per aiutare una persona a liberare se stessa. Loro imparano la Torah in maniera arbitraria. E ancor peggio, sostituiscono la Torah spirituale con figure terrene, immagini terrene. Posso portare molti esempi su come hanno corrotto la Torah. È proibito corrompere la forza della Torah e non è permesso sottovalutarla. È provare a trovare altre soluzioni. Questo era pure il messaggio di Yeshua. Puoi imparare qualunque religione, non importa quale sia quella che ti interessi. Non ti porterà alla redenzione. Una volta la nazione santa ricevette la via per la redenzione e guardali oggi. Ne sono così lontani. Stanno ancora dormendo e si trovano in una schiavitù profonda. Come avrai notato, impiego molto tempo sull'insegnamento del Regno dei Cieli. In ogni parte di questo insegnamento puoi trovare molte indicazioni sulla redenzione che puntano all'insegnamento del Regno dei Cieli. Quali parti abbiamo? L'insegnamento del Regno dei Cieli, che è Keter, cui segue la Torah dischiusa di Mosè che è Da'at, lo Zohar Tiferet e l'insegnamento della Kabbalah, di Etz Chaim del Ari che è Yesod. E il Mashiach viene con Malchut, quando non c'è più bisogno di imparare e insegnare la spiritualità. Quello sarà il tempo di cui si è detto. Ogni uomo vedrà il Creatore. Qualunque parte leggi, poi trovare indizi sulle leggi dell'insegnamento del Regno dei Cieli. Per esempio, nella Torah di Mosè è scritto: Abraham andò nella terra promessa. Che significa terra? Terra promessa. È il luogo nell'essere umano dove si può essere liberati dal proprio male, e con male intendo il desiderio di ricevere per se stessi. Puoi vedere la Torah dischiusa come uno strumento per arrivare alla liberazione. La nazione visse 40 anni nel deserto. E lì studiarono la Torah, come arrivare alla terra promessa. E l'unica cosa che Yeshua fece fu di portarli alla redenzione. Mentre vivevano nel deserto, erano liberi dalle nazioni del mondo, ovvero dal desiderio di ricevere per se stessi. Nel deserto impararono come lavorare sul dare, così di tanto in tanto quando qualcuno attraversò la loro via, lo distrussero. E l'unica ragione per farlo naturalmente era perché era il volere di Hashem. Non pensare che gli atti di Mosè fossero i suoi. Mosè parlava con Hashem. Prima di fare qualcosa chiedeva a Hashem. Fu compito suo guidare la nazione santa alla terra promessa, che è Israele, la terra di liberazione. Questo è quello che vediamo. Che cosa impariamo nello Zohar? Al momento siamo a metà del primo libro dello Zohar e già puoi notare molti indizi, non solo fa un'impressione su ognuno di noi. Specialmente quando impariamo di Habakkuk. Sulla sua morte e risurrezione. Molto accade in quel momento. Fu un momento per me di rivelazione grazie al concetto di Yeshua con l'insegnamento del Regno dei Cieli. Non solo, puoi anche vederlo in quello che abbiamo imparato su Keter e Atik del mondo di Azilut. Come sai, in ogni Keter vi è la forza di Yeshua, il Gmar Tikkun e la redenzione assoluta. Qualunque pagina apri nello Zohar, puoi leggere sulla redenzione. E tutto questo è dato a questa nazione nelle quattro parti dell'insegnamento della redenzione. Guardiamo più attentamente ai riferimenti su Yeshua nell'insegnamento dei cinque parzufim dato all'Ari e ai riferimenti nell'intera Kabbalah. Ari prese l'intero percorso da Ein Sof al nostro mondo dello Zohar e lo fece dal punto di vista di Yesod. Nella persona Ari l'intera Nella persona Ari l'intera anima arrivò allo sviluppo completo fino a Yesod, mentre in Shimon Bar Yochai era sviluppata fino al livello di Tiferet. Naturalmente ognuno di loro si sviluppò fino al livello di Yesod. Per Moshe era Yesod di Dat, per Shimon Bar Yochai era Yesod di Tiferet, ma Ari ottenne Yesod sulla scala di tutto il genere umano. Yesod di Yesod. Lui aveva la forza di attrarre lo splendore della luce Chochmah perché era abbastanza forte da riflettere il vero Yesod per tutto il genere umano. Come possiamo vedere i riferimenti sull'insegnamento del Regno dei Cieli nella Kabbalah? Prima vi è Ein Sof, che ha solo desiderio di dare, il desiderio di creare il mondo. Che cosa è il mondo? Il mondo è un kli. Ein Sof creò il kli al fine di poter dare la sua luce all'interno di questo kli. Prima vi è la creazione della mancanza, seguita dall'adempimento datoci dalla luce. Fu il suo pensiero di creare una creazione indipendente, che fosse assolutamente indipendente. Alla creazione manca la luce. È solo un cli senza luce. Vi è un creatore a una creazione. Ogni elemento della creazione è creato in modo tale che la creatura desideri individualità. In ogni creatura vi è un desiderio di raggiungere uno sviluppo. È adempimento completo e questi individui insieme costituiscono la creazione perfetta. Lo stadio successivo è il mondo di Adam Kadmon. L'obiettivo del creatore è di dare tutta la sua bontà e il suo desiderio alla sua creazione. Nei mondi spirituali si trovano le radici dell'idea del Mashiach. In un certo senso qui si trova già la forza di Yeshua, solamente in forma potenziale. In altre parole, molto sottili, la manifestazione di questa forza arriverà più tardi. Questo è solo il primo parzuf. Come è fatto questo primo parzuf? Esso si chiama Galgalta. È qualcosa di speciale accade qui. La luce diretta o Yashar arriva tramite la bocca aperta del corpo Guf dentro il corpo dei Sfirot. La luce arriva in Adam Kadmon. E la luce Keter ha dentro di sé tutte le altre nove luci. Questo è qualcosa di meraviglioso e occorre solo qui nel Parzuf Galgal. In un certo senso è solo un Kli, Malchut. E tutte e 10 le luci entrano in un colpo solo. Naturalmente vi è un ordine in questo Kli, dall'alto in basso, ma è pur sempre un Kli. Ma già era presente il futuro Kli Keter. Nel Parzuf Galgalta, nel posto del Kli Keter, vi era già la luce Keter. Entrambe erano presenti in potenziale, il Kli Keter e la luce Keter. Questo è qualcosa di unico e presente solo nel primo Parzuf della creazione. Quando arriverà il Gmar Tikkun sarà lo stesso, ma con una piccola differenza. L'alta luce arriverà fino al mondo Asiya. Poi viene il secondo Parzuf Abba. Che cosa vi è all'interno di questo secondo Parzuf? La luce Keter ha lasciato Galgalta e non è ritornata nella creazione. Che cosa vi è di così speciale nel Parzufa? durante l'intero periodo della collezione. Non vi è luce dentro questo kilim. Dov'è la luce, Keter? Ora si trova sotto Malchut del Rosh Testa e resta lì fino al Gmartico. Perché è lì? Per aiutare i Kilim ad ottenere la luce. Ma non dall'interno dei Kilim, piuttosto dall'alto e dall'esterno dei Kilim. Questa è una condizione molto speciale. La luce Keter è fuori i Kilim. È fuori i Kilim, Keter, e risplende solo da lontano. Fu il desiderio di Hashem di creare i Kilim passo dopo passo per renderli indipendenti. Guarda cosa accade nel Parsuf Ab. La luce non venne una volta, ma 10 volte entrò e uscì. Questo è quello che in Kabbalah chiamiamo in ebreo Mate Velomate. La luce entra nel Kli Keter e lo lascia. Entra nel Kli Keter e prosegue nel Kli Chochmah, va fuori e rientra, eccetera, secondo le leggi universali. L'ingresso e l'uscita della luce crea il Kli. Puoi anche vedere che l'idea del Mashiach ha le sue radici qui nel Parzuf Ab. C'è lo splendore della luce Keter nel Kli Keter, e puoi vedere questo come un intermediario tra la luce del capo del Parzuf e i Kilim, ma resta sempre fuori. È solo un intermediario tra Ein Sof e i Kilim. Ma la luce Keter, che è ora fuori, prima era nel Parzuf Galgalte, nella creazione. Prima la luce Keter entrò in Galgalte e dopo uscì. Perciò il Kli Keter ha assaporato la luce Keter. Ricordati il principio. Niente scompare in spiritualità. La luce Keter ha tutte le qualità, contiene qualcosa della creazione proveniente dal Kli Keter di Galgalt. All'interno vi è una traccia di questo luogo. Il passo successivo è un segno del nome Yeshua. Nella luce Keter sono nascoste delle tracce di questo nome futuro, ma per il momento è solo un Kli leggero. In altre parole, solo una struttura dei mondi spirituali. In uno stadio successivo vi sarà l'incisione all'interno delle anime degli esseri umani. Le anime non sono presenti nel Parzuf Ab, la loro nascita avviene nel mondo di Azilut. Tuttavia, le condizioni di Yeshua sono già presenti qui nel mondo superiore. Ricorda questo principio. Nulla può esistere sotto che non sia già presente sopra. O in altre parole, niente esiste nel particolare che non sia già nel generale. Ma come può venire il Mashiach? Era possibile per Yeshua venire qui sulla terra senza una traccia della sua sorgente nei mondi spirituali? Già puoi vedere la struttura e le condizioni della venuta del Mashiach nell'ingresso e l'uscita della luce. Quello che sto cercando di fare è darti un'idea generale di come lavoro in Kabbalah. Non rendere la Kabbalah una scienza che Dio non voglia, sebbene ti possa dare a volte questa impressione. La redenzione è già in quello che impariamo. Tienilo sempre a mente. Per chi impara Tes, Talmud Eser Asfirot, tenete a mente che riguarda solo lo sviluppo dei mondi spirituali. Il dispiegare del suo pensiero di creazione. E nel suo pensiero è inclusa la forza del Mashiach, il Salvatore. Se tieni questo a mente, imparare Tess ti darà grande soddisfazione. Allora sai già da dove viene e dove va. Lascia che ti dia una breve panoramica. Il terzo parzuf è Sag. Che cosa accade in Sag? In Sag puoi vedere qualcosa che osserva l'arriva di Yeshua, cioè Keter. Sag ha due parti. Una parte ha la sfera Keter sopra il Tabor e la seconda parte consiste nei Nekudot di Sag. Nekudot significa punti. E ci sono 9 punti o 9 Nekudot. Ed essi sono 9 Sfirot di Sag che discendono sotto il Tabor di Sag. Perché? Sag è Binah e quindi ha un obbligo verso Zon, Ziran Pin e Nukva. Questo terzo parzuf discende sotto il Tabor per aiutarli, per dare a loro. Ricordalo, Binah scende solo per aiutarli. Lei è la parte che dà. Quando parlo di Binah, intendo Binah dell'aspetto generale e Binah dell'aspetto particolare. Nel particolare vi è l'esistenza di Binah in ogni sfera. Quando parlo dell'ascensione a Keter, intendo Binah di Keter. Qui in questo parzuf puoi vedere l'ulteriore sviluppo dell'idea del Mashiach. Da un lato la creazione è fatta da un cli di ricezione, il quale è opposto alla qualità del dare. Ma vi è un altro modo di creare la creatura se non opposta alla luce. era ed è il suo pensiero, che la creazione fosse autonoma. Perciò la creatura ha solo il cli di ricezione. Vi era già nel suo pensiero l'aspetto delle due linee. La creazione del cli di Kabbalah, il cli di ricezione, è una parte, e questo cli causa la separazione della creatura dalla luce. Insieme. L'innrozzamento. La creatura discende ulteriormente. Questo è il significato dell'innrozzamento. Più rozza la luce, più lontana è. E dall'altro lato puoi vedere che a causa di questo si dispiega l'idea del Mashiach. E allo stesso tempo Hashem ci porta la via alla redenzione nella stessa creazione che lui creò. Non è grande? Si dice del Creatore che lui colpisce il giusto, ma allo stesso tempo si prende cura delle sue ferite. Lui ha creato il desiderio di ricevere e anche l'insegnamento della redenzione, e lui ha fatto questo trasmutando il desiderio di ricezione in desiderio di dare. E con questo nacquero le due linee. Da un lato vi è la separazione di Hashem e dall'altro l'idea della salvezza. Questo processo si vede qui in Sag. Lo stesso accade qui. Binah scende sotto il Tabor solamente per aiutare. Lei scende per dare Chassadim ai suoi figli. Il passo successivo è il mondo di Nekudim. Ogni sfera ora ha due opposti. Sul lato destro la sfera. Chesed è sul lato sinistro la limitazione. In ogni sfera Malkut scende e prende posto sul lato sinistro di ogni sfera. Meglio così. Sul lato destro la sfera stessa. E sul lato sinistro la limitazione. In ogni sfera Malkut scende e prende posto sul lato sinistro di ogni sfera. Sul lato destro vi è la sfera stessa, la luce Chassadim, e sul lato sinistro la limitazione. Solo quando c'è limitazione vi è una relazione, allora abbiamo chi dà e chi riceve. Questo è il mondo Nekudim. Invece di parlare di sinistra e destra, è possibile dividere il mondo Nekudim in una parte superiore e una inferiore. La parte superiore può ricevere la luce, mentre la parte inferiore sotto la parsa non può. Allora, che cosa fa il creatore? Compie qualcosa di meraviglioso. Rompe i kilim del mondo Nekudim e li mescola, poiché entrambi sono parte della sua creazione. Quindi, prima lui rompe Echirim e questo causa i Masachim. Ogni parte ha in sé due parti. La parte che può ricevere la luce, la parte buona, è quella che non può ricevere la parte cattiva, tra virgolette. Ogni frammento ha qualcosa che proviene da sopra il Hasè, la luce, e qualcosa che proviene da sotto il Hasè, dove vi è solo mancanze e desideri. Ogni frammento ha qualcosa di buono e di cattivo. Questo è molto speciale. In questo puoi vedere un ulteriore sviluppo delle idee di Mashiach. Ogni parte, non importa quanto grande o piccola, contiene ora entrambe le parti. Luce e oscurità, bene e male, capisci? Perché lui lo ha fatto? Adesso, in ogni parte, vi è la redenzione. E la creatura può riceverla. In ogni parte ci sono scintille di luce, e grazie a questo ogni frammento può correggersi perché la luce è già lì. Per cui ha la possibilità di uscire dall'oscurità nella luce. Questo è il mondo Nekudim. Il prossimo mondo è quello di Atzilut, che è il mondo della correzione. Questo mondo è costituito da due parti. La parte destra è il mondo Atzilut stesso. Questo lato dei Parzufim è luce. Luce del livello Nefesh con una traccia di Ruach. Il lato sinistro di Atzilut contiene i Kelim rotti che possano essere corretti. Rotti, Kelim rotti del mondo Nekudim, che si chiama Bon, il Parzuf Bon. Nuovamente puoi vedere lo sviluppo del Mashiach, come la correzione può andare avanti nella creatura. C'è altro da vedere nel mondo Atzilut? Malchut della prima restrizione adesso è nascosta in Atik del mondo Atzilut. Vi è una conseguenza? Tutto quello che è ora sotto questo Malchut può ricevere. Prima di questo momento non era possibile ricevere la luce Chochmah in Malchut a causa della prima restrizione. Ora lei è nascosta in Attic e grazie a questo è possibile per tutto quello che è sotto di lei ricevere la luce, perché lei non è la vera Malchut. Darihan Pin del mondo Atsilut non c'è alcun malhut della prima restrizione. Invece di questo malhut c'è Ateret Yesod. Vale a dire, la creatura può ricevere la luce da questo punto di Arihan Pin. Ci sono due punti in Malhut. Il punto dello Tzimtzum Aleph è questo, non lascia passare la luce della creazione. È il punto del secondo Tzimtzum tramite cui la luce può passare alla creazione, perché qui Malhut è connessa con Binah. E qui il Malchut del primo Tzimtzum non può fermare la luce. Perciò è qui che vediamo l'ulteriore sviluppo della creazione verso la liberazione. Qui in questo punto abbiamo la realizzazione dell'idea del Mashiach. In un certo senso il Mashiach esiste già solo nei mondi e non nelle anime. E qui nel mondo Atzilut le anime sono create, ma come? Come fu creato Adamo? Fai attenzione e lo chiarirò per te. Ziran Pin e Nukva, Malchutia, ascesero a Binah. Abba padre e Ima madre del mondo Azilut. E qui in questo posto nacque Adamo. Questa è la radice di tutte le anime. Ora puoi vedere che la radice di tutte le anime sono Yesod e Zeiran Pin del mondo Azilut. Perché? Perché Zon, Zeiran Pin e Nukva, ascese in questo luogo e ricevette la luce di Abba e Ima. Grazie a questo nacque Adamo in questo luogo. La luce di Abba fu data a Ziran Pin e la luce di Ima a Nukva. Non è possibile far nascere le anime qui nel nostro luogo, nel loro luogo. Non nel, no, nel nostro, ma nel loro luogo, nel loro proprio luogo, sotto la Parsa. È possibile solo in Abba e Ima, nel posto di Abba e Ima. La luce che hanno Abba e Ima si chiama Neshama. E gli esseri umani ne hanno bisogno. Questa è la nostra fonte. Il significato di nascita è un livello inferiore del padre e madre. Qui significa che il luogo delle radici delle anime proviene da Israel Saba. Israele Saba e Tfunà. E più in giù ci sono Zeiran Pin e Nukva del mondo Azilut. Nella Torah trovi i nomi di Avraham, Yitzhak, Yaakov, eccetera. Queste persone erano altamente giustificate ed erano portatrici Merkava delle forze di Zeiran Pin del mondo Azilut. Non vi è alcun Keter in Zeiran Pin, invece vi è la Sfera Dat. Zeirat Bina ha tre linee e tre sfirot della testa. Chochmah, Binah e Daat. Normalmente Zeirat Bina ha solo sei sfirot e nessuna testa. Nella condizione di Gadlut, grande condizione, Zeirat Bina ha nove sfirot. Nella testa ci sono Chochmah, Binah e Daat. Nel corpo ci sono Chesed, Gvura e Tiferet, e nella parte inferiore del corpo ci sono Netzach, Hod, Yisod. Il vero Malchut non lavora qui nel mondo di Azilut, sebbene parliamo di Malchut a causa del secondo Tzimtzum, la seconda limitazione. Ma in realtà parliamo di Ateret Yesod. Come ho detto prima, Zeirat Bina stesso non ha Keter. Keter gli fu data tramite Binah. Lei gli diede Keter perché amava suo figlio, Zeirat Bina, tantissimo. Ora abbiamo raggiunto una fase molto importante nello sviluppo dei mondi spirituali. Yeshua, il Redentore, appare per la prima volta qui sulla terra ed era rivestito con Keter di Zeirat Bina, che gli fu dato tramite Binah. Questo è il livello interiore di Yeshua con la purezza di Binah. Puoi immaginare che tipo di anima fosse? Da un lato era un essere umano e dall'altro era come Binah. E già sai che Binah è Chassadim puro, è il vero desiderio di dare. Ora puoi capire perché nel cristianesimo Yeshua è come un Dio. Ma in realtà questo Keter non ha le caratteristiche di Zeirat Bina. Appartiene ancora a Binah e a Binah è divina. Zeirat Bina e Nukva del mondo Azilut sono già la creatura. Che cosa hai imparato fino ad ora? Chi è la creatura? È Zeirat Bina e Nukva. Ma Yeshua e Keter proviene da Binah. Binah non è la creatura, lei appartiene al creatore. Abba è Ima, padre è madre, è il creatore del mondo. Tutto quello che hai letto finora è speciale. Non c'è altro posto al mondo dove puoi trovarlo. Proviene dalle più profonde sorgenti di Kabbalah. Questa è la teologia più alta mai esistita ed è rivelata per te per la prima volta. Yeshua è Keter e questo Keter proviene da Binah. Da un lato Keter divenne Keter di Zeirat Bina e Zeirat Bina è la creatore. Creazione, scusi, è la creazione. Questo Keter diventa la creazione perché adesso appartiene a Zeirat Bina. E dall'altro lato, Keter non ha le caratteristiche di Zeiran Pin. Questo Keter di Zeiran Pin è molto speciale. Più tardi impareremo di più riguardo questo tema. E i tuoi occhi vedranno di più e in maniera differente. Questo Keter appartiene a Binah. E Binah non è la creazione, Binah è divinità pura. Non vi è alcun male in Binah, perciò Yeshua non conosceva il male. Questo Keter discese nei nove sfirot di Zeiran Pin nella condizione di Gadlut, per essere la corona per Zeiran Pin. Zeiran Pin è la forza di Israele dall'alto. E qui in basso sulla terra vi è la nazione di Israele, che è portatrice della forza di Zeiran Pin. È il loro destino di portare se stessi in conformità con Zeiran Pin superiore e portare qui sotto la forza di Zeiran Pin e tramandarla. Che cosa significa? Keter di Zeiran Pin del mondo di Azilut è la forza di Binah, cioè ha la forza di Binah che fu data alla parte superiore di Zeiran Pin. Qui in Zeiran Pin del mondo Azilut vi è la forza della redenzione, perché Binah porta la redenzione ai suoi figli, alla sfera spirituale, che ha il nome di creatura e lei Binah la dà ai Parsufim di Zeiran Pin e Nuk. Esattamente lo stesso deve accadere qui sulla terra riguardo alle anime. Questa forza di redenzione scese qui nel corpo di Israele nello stesso modo. E questa è la forza Yeshua. Vi è la forza Yeshua nei mondi spirituali e la forza Yeshua qui sulla terra. Yeshua qui sulla terra vestiva Keter di Zeiran Pin. Egli è il portatore Merkava, rivestimento di Keter di Zeiran Pin nel suo corpo qui sulla terra. Il suo spirito scese qui sulla terra e con questo intendo la nazione di Israele, Zeiran Pin con i suoi nove sfirot. Ma Yeshua è Keter, la corona della nazione di Israele, perché si trova pure nel mondo spirituale. Dall'alto l'anima di Yeshua è rivestita con Zeiran Pin del mondo Azilut. Keter significa corona. E la corona appartiene a un re. Perciò Yeshua è come forza il re della nazione di Israele. E d'altro lato ci sono anime qua giù nella creazione, perché l'anima è la fine. Un'anima è la corona della creazione. E le anime sono incluse in queste persone che hanno il pensiero della creazione come tocco finale, per portare la creazione all'adempimento, alla completezza. Solamente tramite l'ascesa di Man da parte di queste anime, qui sulla terra, le parti del mondo Bia Briezera assia, possono essere corrette. Perciò Hashem mandò l'anima di Yeshua qua sotto, così che lui potesse rivelare il suo pensiero, il pensiero del suo padre. Prima che l'anima di Yeshua venne sulla terra, lui era Gar, tra i primi di Keter del mondo di Azilut. Ora puoi capire perché la redenzione si può ricevere solamente tramite Yeshua. Lui è Gar di Keter del mondo Azilut. Ricordi ancora dove Malchut di Malchut era nascosto in Azilut? Nel capo di Atik. Atik è il capo del capo di Keter del mondo di Azilut. Keter, Chochmah e Binah, tutti e tre formano il capo di Atik. Sotto Gar di Binah di Atik è nascosto il vero Malchut di Malchut dell'intero universo, non solo degli esseri umani, ma dell'intero universo. Come ho già detto, l'anima di Yeshua era rivestita di un corpo di questo mondo, e con Keter di Zeiran Pin di Azilut. Ricordi? La sua anima venne qui sulla terra rivestendo il livello di Keter di Zeiran Pin di Azilut. Ma prima la sua anima era rivestita con il capo di Atik di Azilut. E nel capo di Atik si trova il posto di Malchut di Malchut. O in altre parole, l'anima di Yeshua, prima di venire qui sulla terra, era rivestita del capo di Keter di Azilut. Dove puoi trovare la vera Malchut durante i 6.000 anni della creazione? Sotto Binah di Keter di Atik. E l'anima di Yeshua era sopra il posto di Malchut dell'intero universo, che era nel mondo di Azilut. Certamente questo è un tipo di rivestimento perché è in un certo senso un cli, sebbene il più sottile del mondo Azilut. È la connessione tra Adam Kadmon e i mondi inferiori. In un certo senso l'anima di Yeshua non aveva viu di Malchut, come il resto della creazione ha. In lui c'era ovviamente Malchut di Keter di Atik, nel suo cli prima di venire sulla terra. Era l'anima della testa di Atik. E al suo interno vi erano i sette sfirot inferiori di Malchut di Adam Kadmon. Lo ricordi ancora? È sempre in questo modo. I sette sfirot inferiori del livello superiore sono all'interno della parte superiore del livello inferiore. Perciò lui aveva i sette sfirot inferiori di Malchut di Adam Kadmon entro sé. Qui in Adam Kadmon non si parla di aiut reale, ma vi è qualcosa, perché Ein Sof era entro il suo parzuf galgalt, perciò Ein Sof era anche dentro di lui. E questa fu la prima forma di un Kli. E questa era pure la condizione dell'anima di Yeshua prima della sua discesa e prima che si rivestisse con il corpo nel nostro mondo. La sua anima proveniva da Atik e discese nel nostro mondo attraverso Zeirampin. Mentre scendeva nel nostro mondo, Yeshua si vestì del keter di Zeirampin di Azilut. Per favore, fai attenzione. Non è semplice parlarne, ma gradualmente ti sarà dato. Per questo motivo, non ci fu mai e mai ci sarà un essere umano terreno paragonabile all'anima di Yeshua, né Moshe, né Ari, né Shimon Bar Yochai. In un certo senso è soprannaturale. Ascolta e leggi con la più profonda attenzione. Perché questo è molto speciale, è che cosa è il creatore? Che cosa sono i mondi? Questo è Ein Sof, la luce stessa, che si propagava sempre di più e la sua luce divenne sempre più rozza, così che i Kelim potessero nascere. Ma vi è una legge spirituale che in spiritualità nulla scompare. Ein Sof resta al suo posto senza alcuna connessione con la creazione. Ma per creare la creatura dovette diventare più rozzo e lo fece tramite Adam Kadmon. All'interno di Adam Kadmon ci sono tutte le strutture necessarie per creare la giusta sfera così che lui poté creare un essere umano qui sulla terra. Ciò che fu portato qui è la legge superiore. E l'essere umano deve dare il tocco finale. In un certo senso, il creatore, la luce, la sorgente, si rivestì di un corpo del nostro mondo. Fu il suo volere l'essere in questa sfera del nostro mondo nella forma di un essere umano. Perché? Per portare il verbo vivente, per portare la forza all'umanità intera per salvarla. Non secondo kosher o non kosher, permesso o non permesso. O per via di conoscenza, ma lui voleva che noi lo sperimentassimo in un modo molto profondo. Fu il suo volere l'essere provato in modo diretto, vale a dire tra lui e l'essere umano. Perciò il creatore si rivestì del corpo di un essere umano. Ti è chiaro? Non sto parlando dell'Immacolata Concezione o così o cose simili. Quando imparerai il Brit Chadasha, il Nuovo Testamento, nel nostro libro, lo vedrai gradualmente. È possibile portare il creatore, che è invisibile, cui non si può connettersi, è possibile portarlo in qualcosa che è mortale, per esempio nel corpo umano. Il creatore diede la sua forza a suo figlio. Gli diede la forza del figlio di Dio. Che cosa intendo? Il padre è la causa e il figlio la ragione. Questo è quello di cui parla la Torah, non di un essere in carne e ossa. Ein Sof si vestì di tutto quello che c'era. Concentrati. L'anima viene dal capo di Atik e all'interno di Atik vi è Ein Sof. Quello che cerco di dire è più alto di qualunque cosa udirai o leggerai. Nessuna teologia può raggiungere questo livello. Sto parlando della posizione più alta. Sto parlando della posizione più alta, no. La sorgente dell'anima di Yeshua è all'interno del capo di Atik prima che discesa al nostro mondo e si vestì degli abiti di questo mondo. Mentre veniva giù, si vestì di Keter di Zeirampin del mondo Azilut. Ma tutto questo accade all'interno del capo di Atik. Prima che Yeshua discese, lui era nel capo di Atik, che è sopra Malchut di Malchut. Prima vi era Adam Kadmon, che è ancora Ein Sof, che in un certo senso è il creatore. Ein Sof è all'interno del capo di Keter di Atik ed è la sorgente dell'anima di Yeshua. E fu lo stesso creatore che lo fece scendere al Keter di Zeirampin del mondo Azilut. Come lo so? Grazie alla Kabbalah. Non credere che me lo inventi. Tutto quello che ti sto dicendo proviene da Etz Chaim e altre fonti profonde di Kabbalah e nient'altro. Per esempio, quando sai com'era fatto il mondo Nekudim e com'era dopo la correzione nel mondo Azilut, allora sai che Keter va al Parsa. Per ora non trovo le parole giuste per spiegarlo. Questo non è il posto giusto. Ma l'intero Keter di Atik va fino al Parsa del mondo Azilut e l'anima può percorrere lo stesso percorso verso il basso. Fu Ein Sof a lasciar scendere l'anima di Yeshua e farla vestire del Keter di Zeirampin del mondo Azilut. Nulla scompare in spiritualità. Perciò non è così raro dire che Hashem, o Dio, si vestì del corpo di un essere umano nel nostro mondo, la forza di Keter, che non ha aviyut rispetto all'essere umano, perché Keter ha l'aviyut della fase zero. Questa forza non fa parte di Avaya, perché è il punto della lettera Yud. Solo tramite questo nome ogni persona, non importa a quale nazione o religione appartenga, può ricevere la sua redenzione. Anche la religione è un rivestimento, è un mix di intelligenza umana, è un po' di verità. Ma oltre questo, ogni essere umano ha la stessa struttura. Soltanto tramite Yeshua, tramite questa forza, l'uomo può trovare la propria redenzione. L'intera nazione, tutti possono ricevere una piccola luce, una piccola nefesh, indipendentemente da quale religione osservino. Ma per ricevere la luce Ruach o Neshama devi lavorare duramente e individualmente. Fu Yeshua a mostrarci che non vi è altro modo. In un certo senso è simbolico di quello che deve accadere nell'essere umano. Fu necessario per noi vederlo dall'esterno, fisicamente, come una tragedia della migliore specie, così che l'essere umano possa gradualmente assorbirla in se stesso. Devi arrivare alla comprensione oltre l'intelletto, altrimenti non puoi accettare Yeshua. Solo Yeshua può salvare te e l'intero genere umano. Il Creatore aveva un unico figlio e lo sacrificò per noi, portandolo giù, più, qui giù. Ma nulla scompare in spiritualità. Perciò, dopo il sacrificio, lui, Yeshua, ritornò a Hashem e rimarrà per sempre sotto Hashem, sotto la luce come difensore di suo padre. Se vuoi arrivare alla luce, ascendi a Yeshua. Non appena il tuo credo cresce, sperimenterai cose meravigliose. Potrai resistere a qualunque cosa. Tutte le preoccupazioni materiali apparteranno al passato, perché le avrai superate. Ti sentirai guidato perché anche tu diventerai parte di Hashem e di suo figlio. Ti sarai, sì, come suo figlio, come Yeshua.